La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. L'usignolo e l'imperatore della Cina. Una fiaba di Hans Christian Andersen. Dovete sapere che tanti tanti anni fa, nella grande e lontana Cina, ci stava un imperatore. Il palazzo dove viveva era tra le più conosciute meraviglie del mondo. Le sue mura erano circondate da un giardino immenso, ricco di magnifici fiori. Cammina, cammina, cammina, nel giardino c'erano fiumi, laghi e alberi giganti. Tra quegli alberi viveva un piccolo usignolo. Il suo canto era così soave e bello che in tutto il mondo veniva raccontato da scrittori e poeti viaggiatori. Furono scritti così migliaia e migliaia di libri che narravano le meraviglie di quel luogo fantastico, ma soprattutto fu lodato il canto meraviglioso del piccolo usignolo. I libri andarono per il mondo e alcuni di essi giunsero sino all'imperatore. Egli stava seduto sulla sua poltrona d'oro e leggeva, quando un bel dì sfogliò le pagine di un libro dove veniva elogiato il meraviglioso canto del piccolo usignolo che si trovava nel giardino dell'imperatore della Cina. L'imperatore levò gli occhi dal libro e pensò: e come sarebbe? Che storia è mai questa? Un usignolo? Nel mio giardino? Dal canto dolce e soave? Io non ho mai veduto usignoli nel mio giardino. Non ne ho mai neppure sentito parlare. Subito l'imperatore fece chiamare il suo cavaliere d'onore. Ditemi, cavaliere d'onore, è scritto qui che si troverebbe nel mio giardino un uccello meraviglioso, chiamato usignolo, e pare che sia una meraviglia sentirlo cantare. Domando e dico, perché non ne ho mai sentito parlare? Vostra imperiale maestà, nemmeno io ho mai sentito parlare di questo uccello, rispose il cavaliere d'onore. Male, male, molto male. Ma è mai possibile che tutto il mondo debba sapere quel che mi appartiene e non abbia proprio a saperlo io? Dunque, ordino che questo usignolo dal canto soave venga stasera al mio palazzo e che canti alla mia presenza. Vostra imperiale maestà, disse il cavaliere, vi prometto che cercherò l'usignolo e lo porterò al vostro cospetto. Trovarlo, sì, ma dove? Il cavaliere d'onore corse per tutto il palazzo reale a chiedere se qualcuno avesse mai visto o sentito di questo usignolo dal canto meraviglioso. Ma, ahimè, nessuno sapeva, nessuno. Il cavaliere tornò di corsa dall'imperatore e gli disse che doveva essere una favola inventata dagli scrittori di libri. Beh, insomma, si sa come sono gli scrittori. Ma il libro dove l'ho letto, disse l'imperatore, mi è stato mandato dall'alto e possente imperatore del Giappone e perciò non può mentire. Io voglio sentire l'usignolo. Deve venire qui questa sera stessa. Egli ha il mio imperiale gradimento. E se non viene, dopo che avremo cenato, tutta la corte sarà pestata a sangue. Vostra imperiale maestà, sarà fatto, disse il cavaliere d'onore, e di nuovo corse su e giù per tutta la corte. Finalmente, nelle cucine del palazzo reale, trovarono una povera ragazzetta, la quale disse di conoscere bene il canto di quell'usignolo che stava proprio dentro il giardino imperiale. Tutti si incamminarono verso il giardino imperiale, dove l'usignolo di solito cantava. Giunti sul luogo, di lì a poco l'usignolo incominciò a cantare. Eccolo! Esclamò la ragazzina. Sentite, sentite! Subito il cavaliere d'onore avanzò e, inchinandosi all'usignolo, disse: «Mio eccellente usignoletto, ho l'onore di invitarti per questa sera alla corte reale, dove vorremmo affascinassi Sua Maestà l'imperatore con la dolcezza del tuo canto. Le mie canzoni suonano meglio tra il verde della foresta», osservò l'usignolo. «Ma se questo è il desiderio del nostro imperatore, verrò volentieri». Il palazzo fu rivestito a festa. Quella sera le pareti e i pavimenti, tutti di porcellana, scintillavano alla luce di migliaia e migliaia di lampade d'oro. Nel mezzo della sala grande, dove sedeva l'imperatore, avevano sistemato un trespolo d'oro, sopra il quale stava l'usignolo. Tutta la corte era presente e guardava l'uccellino grigio, che l'imperatore aveva salutato con un cenno del capo. E l'usignolo cantò. Cantò così meravigliosamente bene che l'imperatore ebbe le lacrime agli occhi. Allora l'usignolo cantò ancora meglio, con tanta dolcezza e leggerezza che il canto accarezzava persino il cuore. L'imperatore rimase così commosso, soddisfatto, che voleva donare all'usignolo la sua sciarpa dorata perché la portasse al collo come ricordo, ma l'usignolo, pur ringraziando, non volle accettare, dicendo di essere già ricompensato dal gradimento dell'imperatore, e cantò di nuovo con la stupenda voce dolcissima. Da quel giorno l'usignolo visse nel palazzo reale e l'imperatore ne fu felice. L'usignolo ebbe una gabbietta tutta d'oro che stava comunque sempre aperta. In tutta la città non si parlava d'altro che dell'usignolo dell'imperatore e del suo meraviglioso canto. Un giorno l'imperatore ricevette un grosso pacco dall'imperatore del Giappone, sul quale stava scritto «Usignolo d'oro». «Sarà un altro libro sul celebre uccello», pensò l'imperatore della Cina. Ma non era un libro, era un usignolo che luccicava, un usignolo meccanico che cantava come il vero ed era tutto tempestato di rubini ed oro. Appena lo si caricava, cantava una delle arie dell'usignolo vivo e poi muoveva la coda e l'oro e l'argento scintillavano. «Ah, ah, ah, magnifico, magnifico!» disse l'imperatore. «Bisogna che cantino insieme i due usignoli!» E insieme cantarono, ma non andavano tanto bene, perché l'usignolo vero cantava un po' a modo suo e l'altro usignolo, invece, obbediva preciso al comando meccanico che aveva dentro. L'uccello meccanico dovette allora cantare da solo e tutti apprezzarono il suo canto. Fu un trionfo e l'usignolo meccanico era pure molto più bello a vedersi. Luccicava proprio. 33 volte cantò lo stesso motivo, senza mai stancarsi. La gente l'avrebbe udito volentieri ancora una volta e un'altra ancora, ma l'imperatore disse che ora doveva cantare l'usignolo vivo. Sì, ma dov'era? Dov'era l'usignolo? Perché non cantava? Tutti i cortigiani dissero che il vecchio usignolo era scappato via senza nemmeno ringraziare né salutare l'imperatore. Insomma, un perfetto maleducato, ed era tornato nella sua foresta. «Dopotutto, dei due ci rimane il migliore», disse l'imperatore. «Peggio per l'altro usignolo. Voglio che sia bandito, cacciato dal mio palazzo». E così l'uccello meccanico dovette cantare di nuovo e di nuovo ancora. Bastava ricaricarlo e quello si metteva a cantare e non sbagliava mai una sola nota. Era perfetto, forse un po' troppo perfetto, perché pareva che qualcosa comunque mancasse. Per questo piaceva ancora di più, perché potevano accompagnare il canto, e l'imperatore stesso faceva altrettanto ed era felicissimo come non mai. Ma una sera, mentre l'uccello meccanico cantava e l'imperatore stava disteso a letto e ad ascoltare, qualche cosa dentro l'usignolo fece zzz, zzz, tric trac, e si udì uno schianto. Patapam, patapam, crac. Tutte le ruote girarono all'impazzata e la musica si fermò di colpo. L'imperatore balzò dal letto e fece chiamare un orologiaio, il quale, dopo averlo osservato, scrutato, smontato e montato, sentenziò che oramai l'usignolo meccanico aveva consumato le sue rotelle, che erano persino piene di ruggine. Impossibile ripararlo. Quell'usignolo meccanico non avrebbe mai più cantato. L'imperatore si rattristò e dopo qualche giorno si ammalò gravemente. La corte oramai lo credeva già prossimo alla morte, e ora l'imperatore stava lì, disteso sul suo letto. Poteva malapena respirare. Era freddo, pallido, rigido. Le lacrime che gli restarono solcavano il suo viso. Tutto il regno della Cina rimase in silenzio. Era quella l'ultima notte, sentenziarono i medici, ed i fantasmi e gli spiriti, infatti, iniziavano a ronzare attorno al letto dell'imperatore. Ad un tratto, dalla finestra aperta, si sentì un canto soave. Era l'usignolo, quello vero, che stava fuori, sopra un ramo. Aveva sentito che l'imperatore oramai era alla fine ed era venuto a cantargli un po' di sollievo. Oh, mio, mio dolce usignolo, canta, canta ancora, ti prego, sussurrò l'imperatore. Ancora, ancora, mio piccolo usignolo, canta, canta ancora, ti supplico, per il mio cuore. L'usignolo cantava e cantava. Grazie, grazie, grazie, disse l'imperatore. Oh, mio dolce usignolo, sei tornato. Oh, ti ho cacciato dalla città e dall'impero. Sono stato un ingrato, eppure tu hai scacciato dal mio letto la morte, i fantasmi, gli spiriti e dal mio cuore. Come potrò mai ricompensarti? Ho già avuto la mia ricompensa, mio imperatore, rispose l'usignolo. Vidi il tuo viso lacrimare per la gioia la prima volta che cantai per te, e ora vedo il tuo sorriso. Devi rimanere con me, disse l'imperatore. Usignolo mio, canterai come ti piace e quando vorrai, e io farò distruggere l'uccello meccanico. Oh, magnifico mio imperatore, ti scongiuro, non farmi restare qui a palazzo. Io qui non posso costruire il mio nido. Io devo stare nel giardino, nel mio luogo. Concedimi di venire qui quando ne sentirò desiderio. La sera mi poserò sul ramo vicino alla tua finestra e canterò, canterò per te. Come tu vuoi, mio dolce uccellino. Grazie, grazie. E subito l'usignolo volò via. L'imperatore guarì, d'improvviso. Tutta la corte ne rimase meravigliata, perché già lo credevano morto. Quando poi accadeva qualcosa fuori dal palazzo imperiale, l'imperatore si mostrava assai più informato di tutti i cavalieri reali e messaggeri di corte. E quando questi chiedevano come mai Sua Maestà, l'imperatore, che stava sempre lì, rinchiuso, sapesse ogni cosa, ed egli rispondeva con un grande sorriso da furbetto. Ma come? Dovreste saperlo. Me l'ha detto, me l'ha cantato, l'uccellino, l'usignolo. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net